Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si chiude quindi la settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si chiude la giornata, si chiude anche effetto notte, ma giusto per le festività, e poi si riprende dal 7 puntualmente. E si chiude anche una vicenda che aveva aperto, diciamo, spazi di sconcerto e anche di un certo terrore in Italia, cioè si chiude la doppia vicenda dei killer in fuga. Sono stati arrestati tutti e due, sia il pentito di Camorra che era fuggito a Pescara, e sia il serial killer pluriomicida. Poi si è scoperto che era evaso già 6 volte, pensate, ma era in permesso premio, perché appunto, come dicevo nei giorni scorsi, questo è emblematico di come funzioni la meritocrazia in Italia, visto che era in permesso premio. E poi, per quanto riguarda Natale, quasi Natale, ma Letta, il Presidente del Consiglio, ha precisato che lui non può ricoprire il ruolo di Babbo Natale, perché il paese andrebbe in bancarotta. Quindi, se volete farvi dei regali, delle piccole soddisfazioni, fatevi per conto vostro. Io intanto vi ricordo che ci sono 2 canali per le vostre opinioni, per i vostri commenti, che sono: uno, la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e poi ci sono i numeri per i messaggi: 349-238-6666. Torneremo a parlare ancora di questioni di giustizia, delle fughe, degli arresti, e poi di nuovo c'è l'avvocato questa sera di Gagliano, come anche ieri sera, ma le cose sono cambiate, visto che il serial killer è stato arrestato, il serial killer evaso a Genova. E parleremo anche di indulto. La ministra Cancellieri è tornata a parlare di indulto e amnistia, dicendo che questo sarebbe far uscire almeno 23.000 detenuti, rimetterebbe in equilibrio il sovraffollamento delle carceri. Che cosa ne pensate di indulto e amnistia? Quindi Effetto Notte, potete scrivere sulla pagina Facebook oppure i messaggi 349-238-6666. Io intanto vi ricostruisco la giornata. Sono stati arrestati appunto i 2 killer evasi, il governo esulta, il sistema funziona, commenta la ministra Cancellieri. Unione Europea declassata, l'agenzia Standard & Poor's toglie la tripla A all'Unione Europea, Bruxelles replica: siamo in disaccordo. Vola intanto il prodotto interno lordo americano, più 4,1% nel trimestre. E tra l'altro Obama, proprio poco fa nel suo discorso di fine anno alla nazione, ha detto: nel 2014 il mondo sarà più sicuro. E se lo dice Obama. Poi Telecom, il CDA è salvo, il consiglio di amministrazione, e la mozione della revoca non è passata. Russia, è già libero Khodorkovsky, l'ex uomo più ricco del paese, è a Berlino dalla madre malata. Ilva, la Cassazione annulla il sequestro, gli 8 miliardi che erano stati sequestrati all'Ilva tornano ai Riva. Cinema, Oscar, La grande bellezza di Sorrentino nella short list di 9 titoli ancora in gara per l'Oscar come miglior film straniero. Calcio, sanzione sospesa per Roma e Inter, riaprono così le curve. E partiamo quindi dall'arresto, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, di 2 killer in fuga in permesso premio in questi giorni, Gagliano e il pentito di Camorra Esposito. Quindi sentiamo un po' la cronaca di quanto è avvenuto e le reazioni. È durata meno di 4 giorni la latitanza di Bartolomeo Gagliano. La polizia francese lo ha bloccato a Mentone dopo aver rintracciato l'auto che il serial killer aveva rubato al panettiere di Savona, da lui sequestrato per alcune ore nel corso della sua fuga. Sulla stessa utilitaria l'uomo aveva passato il casello autostradale di Ventimiglia senza pagare il pedaggio e poi era stato fotografato da un autovelox sul lungomare di Nizza. Condannato per 3 omicidi e giudicato seminfermo di mente, Gagliano era latitante da martedì, giorno in cui ha deciso di non rientrare in carcere a Genova dopo un permesso premio. Il suo è stato un colpo di testa, spiega ora il suo legale, l'avvocato Iavicoli, che lo aveva sentito poco prima dell'arresto. Mi ha detto che voleva costituirsi, che era, dispiaceva aver tradito la fiducia del dottor Mazzeo, che è il direttore del carcere, e della dottoressa Verrina, e quindi voleva rientrare. Mi ha chiesto di andare incontro al posto del ponente ligure, dove mi sarei dovuto incontrare con lui e l'avrei portato dai carabinieri. Oltre a quella di Gagliano, oggi si è conclusa anche la latitanza di Pietro Esposito, il pentito di Camorra, fuggito, sempre dopo un permesso, dal carcere di Pescara. La polizia lo ha individuato e bloccato a Forlì, dove aveva cercato rifugio dalla sorella. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si tratta di un grande risultato di cooperazione internazionale tra la polizia italiana e la polizia francese, che ha dato un risultato eccellente. Così Angelino Alfano in conferenza stampa dopo la cattura in Francia del latitante Bartolomeo Gagliano, avvenuta poco dopo quella dell'altro evaso dopo un permesso premio, il camorrista Pietro Esposito. Le 2 catture, ha precisato con soddisfazione il ministro dell'Interno, portano a 51 i latitanti arrestati nel 2013. Questo è lo Stato che funziona, questo è lo Stato di cui i cittadini italiani italiani possono avere un giudizio positivo e nei confronti del quale possono nutrire grande fiducia. L'arresto del killer di Marassi ha fatto esultare con un evviva, questo è un regalo di Natale, la guarda sigilli cancellieri, che era stata costretta a riferire in Parlamento dopo la duplice evasione legata ad un permesso. Il ministro della giustizia ha puntato il dito contro Salvatore Mazzeo, il direttore del carcere di Genova, che dopo l'evasione di Gagliano aveva dichiarato di non sapere nulla del passato da killer dell'uomo, conosciuto a Marassi solo come rapinatore. Risulta in modo evidente come il giudice abbia avviato un'istruttoria chiedendo all'istituto penitenziario e al servizio psichiatrico del carcere tutte le notizie necessarie, proprio partendo dalla valutazione dell'ampio curriculum criminale di Gagliano. La cancelliera ha così confermato l'allontanamento di Mazzeo dal carcere di Genova per aver gettato allarme tra la popolazione e discredito sull'istituzione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi dicevo, ne parleremo. Adesso parliamo delle notizie economiche, anche queste naturalmente in primo piano, a partire da quelle positive che arrivano dall'America, dove riparte l'economia. Maxi crescita del prodotto interno lordo, della ricchezza del paese nel terzo trimestre, più 4,1%, che ha bruciato la precedente stima già robusta e pari al 3,6%. Questo mentre proprio dall'America, dall'agenzia di rating americana Standard & Poor's, è arrivato il declassamento dell'Unione Europea. Il tema ha dominato la giornata conclusiva del vertice europeo di Bruxelles. L'Europa incassa l'accordo imperfetto sull'unione bancaria, ma si trova già a fare i conti con i rischi sui mercati dopo il downgrade deciso dall'agenzia di rating Standard & Poor's, che toglie ai 28 la AAA, abbassando la AA+. In conferenza stampa il premier Enrico Letta saluta, pur in tono più critico, il varo dell'unione bancaria, definendolo un passo significativo, ma ne evidenzia le imperfezioni più macroscopiche, qual è il tempo eccessivo, 10 anni, per il varo di un fondo unico di risoluzione. A movimentare la giornata è arrivato, dicevamo, il downgrade del rating europeo declassato a causa, dice S&P, della debolezza generalizzata del credito nell'Europa a 28. Prima a reagire la Commissione europea, che mette nero su bianco il proprio disaccordo, mentre il premier Letta, pur non nascondendo di ritenere immeritato il giudizio arrivato con tempismo non casuale, invita a tenere conto delle conseguenze e a non sottovalutarlo. Soprattutto, dice Letta, è la dimostrazione che la transizione dalla crisi non è finita e che l'Europa e l'euro restano sotto osservazione. Più disinvolti sul tema il presidente francese Hollande, secondo cui non cambierà quasi nulla, e il presidente europeo Van Rompuy, che non vede un rischio di Natale rovinato causa rating. La cancelliera tedesca Angela Merkel non entra nel merito della decisione, ma fa presente che l'Europa ha già dimostrato con il varo del bilancio pluriennale il suo impegno. La Merkel guarda già alla prossima sfida, quella sui contratti vincolanti per le riforme. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E proprio mentre si chiudevano i lavori a Bruxelles, da Roma arrivava l'ok alla fiducia alla legge di stabilità, con modifiche in arrivo. La fiducia sulla legge di stabilità passa alla Camera in mezzo ad un coro di critiche. La manovra non piace ai sindaci né a Confindustria, che avrebbero voluto più risorse. 305 sì, 396 no, un astenuto. Questo è il risultato del voto di Montecitorio, ma da Bruxelles tocca al premier Enrico Letta intervenire. Siamo tutti ancora sotto osservazioni e quindi è assolutamente necessario mantenere la prudenza del buon padre di famiglia. Lo dico a tutti coloro che in Italia vorrebbero che invece del buon padre di famiglia ci fosse Babbo Natale. Tutti chiedono, ma la somma del tutti chiedono vuol dire la bancarotta dello Stato italiano. Per il Movimento 5 Stelle è una manovra che avvantaggia i lobbisti pronti a piazzare marchette. Per Forza Italia è un provvedimento modesto e inadeguato. Renato Brunetta. Tutti contro per una legge di stabilità sbagliata, inutile, dannosa, che aumenta la pressione fiscale, non aumenta l'efficienza e la produttività nel mercato del lavoro, di fatto aumenta le accise, le tasse su tutto e su tutti, non serve a far ripartire l'Italia. Tra le novità, un decreto per correggere le detrazioni sulla casa, la TASI, 500 milioni già previsti, ma si potrebbe arrivare a 1,3 miliardi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il Presidente del Consiglio Letta ha parlato anche di Telecom mentre era in corso l'assemblea del CDA, e poi si è presa la notizia che il Consiglio di Amministrazione di Telecom è salvo, non sarà revocato, ha votato contro la proposta di revoca il 50,3% dei presenti all'assemblea. Ma sentiamo che cosa ha detto Letta. Telecom Italia è una società privata ed esistono delle regole di mercato che vanno rispettate, perché noi siamo un paese che vuole attrarre investimenti e il cui mercato è aperto a investitori nazionali, a investitori esteri, e quindi ritengo che dobbiamo partire da questa considerazione. Telecom Italia è una società privata, la rete è un asset strategico per il paese, ancorché privato. E quindi io ritengo che la linea che il governo ha tenuto fino adesso, e che qui ribadisco, il governo non parteggia per nessuno dei giocatori in campo, per nessuno dei giocatori in campo. E quindi io ritengo che nemmeno il Parlamento debba fare norme che aiutino un giocatore contro l'altro. Adesso spostiamoci all'estero. Prima vi dicevo che Barack Obama nel suo discorso alla nazione ha detto che il prossimo anno sarà il più sicuro in assoluto per il mondo. E adesso un'altra dichiarazione: le rivelazioni della talpa del Datagate Edward Snowden, dice il presidente, hanno danneggiato gli Stati Uniti, hanno danneggiato il modo in cui raccogliamo intelligence, hanno danneggiato la diplomazia americana, aggiunto affermando che si tratta di un danno che non era necessario, insomma un danno globale. E poi invece spostiamoci tra la Russia e Berlino, perché nella capitale tedesca, dalla madre malata, Mikhail Khodorkovsky, graziato oggi dal presidente Vladimir Putin. Così come era giunta sorpresa la notizia del perdono concesso da Vladimir Putin, anche la cronaca della liberazione di Mikhail Khodorkovsky si è srotolata oggi a grandissima velocità tra misteri e colpi di scena. Il presidente russo questa mattina ha firmato il decreto in cui afferma di aver concesso la grazia al suo grande nemico, rimasto in carcere 10 anni per ragioni umanitarie a causa della malattia della madre Marina. Ma nessuno, né i giornalisti né gli avvocati, hanno visto uscire l'oligarca del petrolio dalla colonia penale in cui stava scontando la sua pena in Carelia. È stato il Servizio Penitenziario Nazionale a comunicare poco dopo che Khodorkovsky era già in volo verso la Germania. Il patto stretto con Putin in cambio della libertà potrebbe dunque comprendere l'esilio, ma questa è un'eventualità che Khodorkovsky si era sempre rifiutato di accettare, così come aveva sempre escluso di chiedere il perdono per crimini, dall'evasione fiscale all'appropriazione indebita, che afferma di non aver mai commesso. In una dichiarazione rilasciata da Berlino, Khodorkovsky conferma di aver chiesto il perdono per motivi familiari, spiega di volersi dedicare ai propri cari e augura buon Natale a tutti. I lati oscuri della vicenda restano tantissimi. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E dalla Russia all'Uganda, che non è un paese per gay, evidentemente, il Parlamento di Kampala ha infatti approvato a larga maggioranza una legge che inasprisce le pene nei confronti degli omosessuali, prevedendo anche l'ergastolo per i recidivi. Cronaca giudiziaria, tornando in Italia, a Napoli, nella nuova inchiesta che ha portato oggi all'arresto di Walter Lavitola, non è emersa alcuna ipotesi di reato a carico di Silvio Berlusconi, lo ha chiarito il procuratore Giovanni Colangelo, l'ex direttore dell'Avanti. Lavitola è stato ricondotto in carcere, quindi con l'accusa di tentata estorsione ai danni della società Impregilo. Adesso parliamo di un lutto nell'alta moda, di Sergio Loro Piana. Questa estate la decisione di cedere l'80% dell'azienda ai francesi aveva fatto storcere il naso a tanti. Ecco, un altro gioiello della nostra manifattura che sceglie la via più semplice e se ne va. Qualcuno ebbe anche da ridire sull'ammontare di tasse pagato sulla plusvalenza, con un consistente risparmio grazie a una legge dello Stato. Certo, di fronte agli oltre 2 miliardi messi sul piatto per Loro Piana da LVMH, sarebbe stato difficile per chiunque dire no. Ma i due fratelli, Sergio e Pierluigi, sottolinearono subito come ormai solo un grande gruppo avrebbe consentito un ulteriore sviluppo del marchio. Abbiamo raggiunto risultati straordinari, ma per la competizione che si è scatenata, da soli probabilmente non ce l'avremmo fatta. Riletta oggi la decisione di vendere, pur rimanendo alla vicepresidenza per assicurare la continuità aziendale, assume anche altri significati. Sergio Loro Piana era malato da tempo e forse ha voluto, assieme al fratello, assicurare nuove prospettive all'azienda, alle fabbriche, tutte in Italia, ai dipendenti. Cercando in rete si trovano rare interviste rilasciate da Pierluigi, nessuna di Sergio. Una scelta che ci racconta qualcosa della famiglia che per anni ha dato lustro al Made in Italy. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per rimanere nell'alta moda, Prada riporta in Italia le società di controllo basate finora in Olanda e Lussemburgo. È una decisione coerente con la nostra volontà di investire sull'Italia, così è il commento di Patrizio Bertelli. Adesso parliamo invece di macchine cubane. L'immagine è di quelle classiche per chi è stato in viaggio a Cuba. Vecchie Chevrolet della metà degli anni 50 che sfrecciano da sempre lungo il Malecón, il lungomare dell'Havana. Qualcuna arranca, altre sparano fumo nero dal tubo di scappamento, altre ancora si fermano improvvisamente per un pistone o una valvola rotta. Tutte però sono incredibilmente lucide, pulite, lustrate come nuove, perché i cubani sono i migliori meccanici al mondo, gente in grado di smontarti 3 o 4 auto diverse e poi fattene trovare una rimontata con pezzi di diversa provenienza. Da poche ore la rivoluzione cubana viaggia anche su 4 ruote. Sì, perché per la prima volta dal 1959 i cubani avranno il diritto di comprare veicoli nuovi e usati senza speciali permessi governativi. È una delle 300 riforme promesse da Raúl Castro quando ha preso il posto del fratello Fidel nel 2008 e poi approvate dal congresso del Partito Comunista Cubano nel 2011. Si tratta di una svolta verso una maggiore libertà economica nel paese del comunismo caraibico? Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere il calcio, sono state sospese per Inter e Roma le sanzioni contro i cori razzisti. Non una soluzione piena, ma la riapertura delle curve di Inter e Roma che il mondo del calcio italiano si augurava per evitare di esportare ovunque l'immagine del derby della Madonnina disputato con San Siro Monco e magari con gli ultras fuori dallo stadio a creare problemi di ordine pubblico. La Corte della Federcalcio ha deciso di non decidere. Chiusura sospesa per le due curve perché, secondo i giudici d'appello, servono approfondimenti di indagine per capire se i referti che avevano spinto Tosella a squalificare i due settori, facendo cadere anche la condizionale, erano corretti e scritti a norma di regolamento. Scappatoia suggerita dagli stessi ricorsi dei due club. L'Inter in particolare mirava ad evitare che la chiusura cadesse proprio in coincidenza con il derby. Se ne riparlerà così a gennaio, mentre le società in coro tornano a chiedere che il codice sia cambiato. Sarebbe la seconda volta in pochi mesi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E saluto subito Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che è qui con me. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. E l'aspetta un durissimo lavoro. Perché? Perché c'è stato oggi il via libera sulla fiducia, il voto di fiducia alla Camera sulla legge di stabilità. 350 sì, 196 no. Però subito, sapete, ieri ne abbiamo anche parlato, insomma, della protesta durissima dei comuni, del Lanci, quindi il ministro Del Rio ha detto a breve ci sarà un decreto per correggere le detrazioni sulla casa. Poi ci sono altri provvedimenti. Quindi cerchiamo intanto di capire, perché ci sarà molto lavoro per Alberto Rioli e i colleghi, perché faranno per domani un doppio Sole 24 Ore, cioè due giornali praticamente, quindi ha lavorato di giorno, lavoreranno anche di notte, così Alberto? Sì, esatto, facciamo due giornali, il primo sarà tutto dedicato, 16 pagine alla legge di stabilità, dove entreremo nei dettagli su cosa cambia per le persone in termini di tassazione sulla casa, di fisco più in generale, di questioni di detrazioni IRPEF, sulle pensioni, sul lavoro quotidiano, sulle regole per i comuni e tutto quello che serve di sapere su questa importantissima legge per i conti pubblici e per lo Stato. Che tra l'altro l'iter, scusa Alberto, cerchiamo di capire, non è ancora finito, se è vero che poi ci sono degli altri provvedimenti correttivi, altri, quando finisce? Quando arriva? Sì, esatto, hai ragione. Un disegno finale, diciamo. L'iter della legge di stabilità in senso stretto sta finendo perché domani passerà all'altro ramo del Parlamento e lunedì sarà votato per il sì definitivo alla Camera. E è che oggi il ministro Del Rio ha annunciato che ha intenzione di presentare un decreto rapidamente per modificare il sistema delle detrazioni che riguardano la TASI, la tassazione appunto sugli immobili. Solo che per aumentare le detrazioni delle fasce più basse, diciamo così, di reddito e dei meno abbienti, probabilmente verrà aumentata l'aliquota, l'ultima aliquota, che oggi è 2,5 per mille, finirà al 3,5 per mille, quindi con un sistema di compensazioni interni che insomma scontenteranno un po' poche persone. Senti, ma è come la questione dell'IMO e di altre cose, insomma, che esce da una parte ma rientra dall'altra. Insomma, tu che sai leggere in queste cose, Alberto, un po' di fregatura, non so se è troppo forte. Sì, purtroppo forte, diciamo è tribolata assai questa legge di stabilità e tutto quello gli gira intorno. Naturalmente tutto è dovuto al fatto che l'Italia ha quel macigno di debito che tutti conosciamo e ha deciso di essere più virtuoso di altri paesi dell'Europa e di imboccare il pareggio di bilancio fin dal prossimo anno, quindi il margine per operare con le risorse date è molto molto stretto. E del resto l'Etta non è Babbo Natale, come ha detto esattamente, oggi. Esattamente, no? È il motivo per cui oggi il Presidente del Consiglio ha ribadito questa tesi dicendo che se per caso invece andasse a sollecitare degli allentamenti anche in Europa farebbe l'errore che è stato fatto nei decenni precedenti. Invece probabilmente basterebbe essere un pochettino più autorevoli e più agguerriti, e probabilmente uno spazio di bilancio senza apparire non virtuosi ci sarebbe, grosso modo fino a uno 0,5% del PIL, che non è poco. Tu dici andare in Europa e essere un pochino più incisivi. Esattamente, c'è il margine. Senti, invece questa cosa del declassamento della, dell'Unione Europea da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's, una cosa, cosa fa? Declassa un continente intero? Vabbè, non sono tutti nell'Unione Europea, i paesi europei, però... Sì, ha molto la sembianza di un atto, diciamo così, politico, che prescinde un po' da quella pagella tecnica che normalmente viene considerata un rating, l'attribuzione di un rating da parte delle società, delle agenzie di rating, appunto. Cioè il grado di affidamento economico-finanziario, diciamo. Sì, di per sé non è un grande problema, anche perché per esempio la Francia già alla Francia già è stata tolta la AAA, è stata tolta anche agli Stati Uniti, quindi non è un piccolo dispetto, diciamo così, dei valutatori, degli enti, dei debiti sovrani, che però appunto l'Europa ancora non ce l'ha un debito sovrano accumulato, purtroppo, perché se avesse gli Eurobond sarebbe molto importante. Gli unici effetti potrebbero avere a ricaduta sono le valutazioni poi sui fondi che sono stati messi in campo, il cosiddetto ESM, quello che è stato utilizzato, il famoso fondo salva stati, quello che è stato attivato con la Grecia, e questo potrebbe creare qualche problema poi nella gestione delle obbligazioni che sono retrostanti a questo tipo di erogazioni. Però insomma i tecnici non si stanno preoccupando moltissimo, valutano questa cosa come un atto, diciamo così, di scortesia politica. Di scortesia, quindi qualcosa anche di diplomatico. Senti, ma sarebbe banale dire chi giudica il rating delle agenzie di rating, anche loro avranno un patrimonio, un bilancio, qualcosa? È un grande tema questo qui, e infatti più volte è stato detto che c'è un conflitto di interesse grande come una casa, perché nei board delle agenzie una casa senza IMU, tra l'altro. Perché nei board delle agenzie di rating ci sono anche fior di speculatori planetari. Buffett è uno di questi, tanto per citarne uno. E quindi effettivamente, nonostante si siano creati dei meccanismi cosiddetti a muraglia cinese, che impediscono poi di avere interferenze tra l'attività consulenziale che fanno le agenzie e l'attività di valutazione che fanno le medesime agenzie, insomma, a volte sono delle paratie piuttosto fragili, come certi muri in cui si sente il rumore del vicino, diciamo. Tra poco sentiremo Raffaella Calandra sull'aspetto giudiziario relativo a Telecom. Invece sul CDA, che cosa è successo brevemente, Alberto? Semplicemente un CDA di grandissima tensione che si è spaccato, però con il 50,3% dei voti ha confermato l'assemblea ha confermato il CDA che è stato insediato dopo che gli spagnoli hanno preso il controllo della holding di controllo della medesima Telecom. La pattuglia messa in campo da Fossati, che era il rappresentante dissidente rispetto a questo tipo di orientamento che porta ad avere una cessione di sovranità forte, diciamo così, nella strategia agli spagnoli Telefonica, non l'ha spuntata, anche se ha dimostrato che palesemente l'assemblea è spaccata quasi a metà, perché insomma 50,3% non è una maggioranza di grande rassicurazione. Senti, invece sull'aspetto giudiziario, Telecom, i PM indagano su un'intesa occulta, Raffaella Calandra? L'ipotesi di reato è ostacolo agli organi di vigilanza, c'è un fascicolo con tre aspetti da chiarire soprattutto, questa è l'ipotesi di reato, ma come ha chiarito il procuratore Giuseppe Pignatore non c'è al momento ancora nessun indagato. La Procura di Roma ha avviato un'indagine sulla Telecom dopo la presentazione alla Consob degli esposti delle associazioni dei piccoli azionisti, quindi bisogna dire che è un atto dovuto certamente, ma altrettanto di sicuro è un'inchiesta destinata a fare non poco rumore, perché va a scavare in una delle più delicate eppure controverse operazioni degli ultimi tempi riguardanti un asset importante come Telecom, appunto, ossia il passaggio di quote dai grandi soci telco agli spagnoli di Telefonica, di cui parlavate già prima. L'ipotesi di reato, come dicevo, è ostacolo agli organi di vigilanza, quindi il sospetto di PM e della Guardia di Finanza è dell'esistenza di un patto occulto tra i maggiori azionisti per favorire appunto gli spagnoli in modo sotterraneo, appunto, quindi senza sottoporsi ai controlli obbligatori degli organi, a cominciare dalla stessa Consob. Tre sono soprattutto gli aspetti da chiarire, che sono l'aumento di capitale di Telefonica innanzitutto per 324 milioni, poi l'emissione del famoso prestito convertendo che è stato sottoscritto dagli americani di BlackRock con una modalità di collocamento che è stata considerata anomala dagli investigatori, e poi la congruità del prezzo con cui Telecom Argentina è stata ceduta a Fintech. Anche in questo caso il sospetto che dietro questa operazione ci sia stata una vendita decisa per favorire le richieste degli stessi spagnoli, che sicuramente in Sud America hanno una serie di interessi. Altra cosa da dire è che il primo atto di questo fascicolo è stato l'interrogatorio, proprio alla vigilia di questa importante assemblea di oggi, l'interrogatorio come testimone dell'ex presidente Franco Bernabé, che si era dimesso agli inizi di ottobre proprio come in contrasto con gli altri, proprio dopo la spaccatura con i grandi soci intorno all'operazione telefonica. Si tratta di un interrogatorio che rientra, hanno specificato i magistrati capitolini, nel quadro preliminare di acquisizione di informazioni, lo hanno scritto in una nota, chiarendo anche che da ottobre, quindi dal momento diciamo in cui l'operazione è avvenuta, che la procura sta seguendo gli sviluppi di tutta quanta la vicenda Telecom con una serie di scambi di informazioni con la Consob. Si tratta di operazioni che avvengono quasi sempre in questo genere di operazioni finanziarie, ed infatti ad indagare su questa vicenda ci sono quegli specialisti della Guardia di Finanza come il nucleo valutario, e anzi in particolare c'è soprattutto un colonnello che è lo stesso che ha indagato dalle scalate bancarie del 2005 di Milano alla MPS di Siena e ora anche alla Telecom, quindi operazioni finanziarie tutto molto importanti. Grazie Raffaella Calandra, hai sentito Alberto Rioli, una vicenda abbastanza intricata. È una questione molto complessa, bisogna dire che ancora non ci sono indagati formali, diciamo così, la notizia per ora è questa, abbiamo sentito. Invece l'altra notizia con la quale poi saluto Alberto Rioli, che deve fare questo doppio giornale, è che sulla legge di stabilità c'è il via alle dichiarazioni di voto, non so quanto andranno avanti, insomma nel momento vedremo quale sarà l'esito. Alberto Rioli, intanto allora buon lavoro. Grazie, buona serata a tutti. Ciao Alberto. Bene, allora iniziamo a parlare di giustizia. Tra poco dovremo collegarci anche con l'avvocato Iavicoli, stiamo aspettando di poterlo trovare libero. E intanto saluto l'onorevole Edmondo Cirielli, buonasera. Buonasera. Deputato di Fratelli d'Italia, e c'è l'onorevole Sandro Gozzi, che invece è deputato del PD. Buonasera a lei, Gozzi. Pronto? Buonasera. Grazie, non l'avevo sentita, c'era un po' di rumore di sottofondo. Tra pochissimo, dicevo, ci collegheremo con l'avvocato di Gagliano per farci rilasciare appunto qualche dichiarazione sulle ultime ore passate con il suo assistito. Ma intanto, a proposito di questo tema che è stato di nuovo, che è molto caro alla ministra Cancellieri, sappiamo a Napolitano, anche il Papa aveva fatto un appello, però insomma mi pare di aver visto, anzi l'ho visto mesi fa, un sondaggio che secondo il quale il 73%, se non sbaglio, di italiani, era una percentuale altissima, è contrario a provvedimenti di indulto, di amnistia. Però la ministra Cancellieri oggi ha detto che il governo non può che rassicurare il Parlamento, che scegliere di ricorrere agli strumenti straordinari di amnistia e di indulto per risolvere l'emergenza carceri non sarebbe un fuoco di paglia, ma sarebbe un buon viatico per la riforma del sistema penale e penitenziario, e in questo modo anche questa misura verrebbe approvata anche dal Consiglio d'Europa dopo le sollecitazioni subite dall'Italia per il sovraffollamento delle carceri. Mi dicono che forse tra pochissimo l'avvocato Edmondo Cirielli, lei che cosa ne pensa di questo provvedimento che dovrebbe, diceva la ministra Cancellieri oggi, in 3 anni liberare 23.000 detenuti? Oh, guarda, innanzitutto noi siamo contrarissimi innanzitutto perché è ingiusto moralmente nei confronti delle vittime e dei parenti delle vittime, è ingiusto per la sicurezza della nazione, perché chi commette reati deve andare in galera, deve scontare la sua pena, è inutile perché è dimostrato, lo dimostra anche il caso di questo Gagliano che ha usufruito nel 2006 dell'indulto e poi è tornato in galera, quindi è un provvedimento tampone che non risolve la radice dei problemi. La radice dei problemi sono: uno, ci sono troppi stranieri che con accordi con i paesi stranieri devono andarsene a scontare la pena nel paese d'origine. Due, ci sono troppe persone in custodia cautelare ed è una cosa, questa sì, un'autentica vergogna, perché ci sta più di 10.000 persone in galera senza essere state neanche condannate in primo grado e la stragrande maggioranza che non sono stati neanche presi in flagranza di reato, quindi non si sa neanche se sono colpevoli o innocenti, e sappiamo che un terzo di questi statisticamente verrà assolto. Alla fine Quindi Cirielli, non ho capito, quindi lei dice è contro l'indulto e l'amnistia, però ci sono tante persone che stanno attendendo di... Ma noi, l'indulto e l'amnistia colpisce persone che sono hanno una sentenza passata in giudicato, cioè noi mettiamo in galera le persone prima che hanno subito un processo. Perché l'indulto estingue la pena, mentre l'amnistia estingue il reato, no? Sì, quindi noi mettiamo in galera una persona in custodia cautelare prima del processo, poi gli facciamo 3 gradi di giudizio e lo mettiamo in libertà. Ma ci sta di più, le posso dire con chiarezza, perché è un dato che è conosciuto da tutti. In Italia, tra sospensione condizionale della pena, liberazione anticipata, affidamento in prova a servizi sociali, messa in prova e tante altre diavolerie, è già difficilissimo finire in galera. La dimostrazione è questo Gagliano, con 3 omicidi, una rapina, un'estorsione, un'evasione negli ultimi 20 anni. No, 6 evasioni, dovrebbe essere 5-6 evasioni, poi chiediamo magari al suo avvocato. Negli ultimi 20 anni è stato più libero fuori. Io penso che una persona che uccide in maniera violenta e selvaggia, come ha fatto una persona, nel caso della prima, la prostituta, dovrebbe avere l'ergastolo. E invece questa persona negli ultimi anni è riuscito, dopo aver fatto un omicidio, a fare non so quanti altri reati. La dimostrazione è che non funziona nulla. C'è di più, la verità è che lo Stato non vuole spendere soldi per il recupero dei detenuti facendo dei servizi seri di rieducazione in carcere. Non costruisce carceri nuove, non fa carceri differenziate, non fa accordi con paesi stranieri, ha una custodia cautelare da paesi di terzo mondo e poi tutte queste sue inefficienze, queste sue colpevolezze le scarica sui cittadini. Ogni 2 o 3 anni fa un provvedimento nuovo di clemenza, o amnistia, o indulto, o indultino, o altre forme a fine consentono l'ultima, la liberazione anticipata, che dovrebbe essere un premio che viene dato al detenuto, che ogni 6 mesi, se si comporta bene, gli do uno sconto di 45 giorni, che io già sono contrario, ma passi, invece glielo diamo anticipatamente quando ancora non ha scontato la pena. E quindi come facciamo a sapere se è una cosa che si è meritato? Quindi alla fine non c'è una coerenza, c'è una scusa della del sovraffollamento. Cirielli, ma di questo torneremo a parlare, sentiremo anche, se abbiamo tempo, poi Bruno Tinti, ex magistrato, che proprio qui a Fettonotte 2 giorni fa aveva detto che cosa significa comportarsi bene in carcere, perché come vengono dati a volte questi permessi premio. Ma lei, onorevole Sandro Gozzi, mi pare che invece avesse fatto una proposta in questo senso di provvedimenti per cercare di svuotare un po' le carceri, o sbaglio? Ma io non ho fatto provvedimenti, non ho presentato proposte per svuotare le carceri. Io ho presentato proposte per riformare la giustizia italiana e porre fine alla gravissima illegalità, alle gravissime violazioni che lo Stato italiano, la Repubblica italiana, compie ogni giorno nei confronti dei cittadini. Queste violazioni sono legate ad esempio all'eccessiva lunghezza dei processi e sono legate ai trattamenti disumani e degradanti che avvengono nelle nostre carceri. Sono le ragioni per cui noi siamo pluricondannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani, perché violiamo i principi alla base della nostra Costituzione e i principi della Convenzione Europea dei Diritti Umani. E questo è chiarissimo. Quali sono quali sono questi principi? La certezza della pena e la certezza del recupero. In Italia non c'è certezza della pena, perché a causa delle prescrizioni, processo lungo, processo breve, sul quale tra l'altro credo che Cirielli avrà qualcosa da dire. Sì, dopo glielo chiediamo. In galera ci vanno in Italia solo i poveri cristi, solo quelli che non hanno la possibilità di pagarsi bravissimi avvocati che sanno giocare con le astruse leggi italiane e che quindi la fanno franca con la prescrizione. In Italia l'amnistia c'è già, ma è l'amnistia per i ricchi, per chi si può permettere gli avvocati che fanno giocare la prescrizione. E quanti processi sono prescritti in Italia? Quindi c'è un punto che nell'interesse dei cittadini e delle vittime dei reati occorre rendere finalmente certa la pena. E questo vuol dire modificare tante norme in materia di durata dei processi, di giustizia, eccetera. No, ma questo ricordo, è chiaro, Gozzi, però è, è favorevole o no l'amnistia all'indulto, ma però, vede Gozzi? Vede che lei pone la domanda in maniera sbagliata. Lei sta sbagliando perché l'amnistia e l'indulto di per sé non sono assolutamente sufficienti, ma l'amnistia e l'indulto per certi reati sotto i 4 anni, non certo gli omicidi, non certi reati sessuali, non certi reati di mafia, non certi reati di corruzione, ma se per reati ben identificati all'interno di un'ampia riforma della giustizia, e certamente in questo modo, se sono dei tasselli di un'ampia riforma della giustizia, vanno presi. Perché? Perché io non so se ci rendiamo conto, io ho detto trattamenti disumani e degradanti, ho detto che la Corte Europea ci ha dato fino a maggio del 2014 per risolvere la situazione delle carceri e sono d'accordo con quanto veniva detto, addirittura nelle carceri italiane ci stanno degli innocenti o comunque dei presunti innocenti. E questo l'abbiamo sentito, Gozzi, però il problema, no, ma mi ascolti lei un attimo, mi ascolti che se ho il tempo poi corre. Quello che voglio dire, Gozzi, è che però le persone di fronte a casi come questo di Gagliano o del pentito di Camorra che aveva straziato la sua ex fidanzata, uccisa, bruciata, torturata eccetera, con tutti questi permessi premio che hanno avuto, Gagliano con 6 evasioni che ha fatto, capisce che c'è un po' di diffidenza nel dire ma con l'indulto e l'amnistia non verranno messe fuori persone particolarmente pericolose. Mi spiega che cosa c'entra il caso Gagliano con l'amnistia? Sto dicendo, ma secondo lei è un sistema giustizia che ha qualche lacuna. Ma certo, ecco. Per questo ma come ha ecco? No. Ma te l'ho detto che ho presentato 25 proposte di legge in Parlamento per riformare la giustizia su tutti gli aspetti, ivi inclusa la custodia cautelare. Mi sta facendo dire che io sto dicendo che la giustizia italiana funziona. No, io non ho detto non funziona questo. Né la giustizia italiana né funzionano le carceri italiane, perché non c'è certezza del recupero. Guardate che il carcere non è vendetta sociale. Il carcere è fatto per punire chi ha sbagliato e per cercare di fare in modo che non sbagli più e di recuperare la società. Dato che le carceri italiane non funzionano, no, perché sono 30.000 persone in più e perché i detenuti li teniamo in delle situazioni indecenti, se si entra in galera mezzo criminale in Italia si esce che si è criminale intero. Ho capito. Quindi, Gozzi, mi faccia chiedere però, scusi un attimo, mi faccia chiedere a Cirielli la questione, visto che esiste la famosa legge Cirielli per la prescrizione breve. Cirielli, no? Un po' in contrapposizione con l'essere contro dei provvedimenti e poi accorciare il periodo in cui uno... Allora, posso dire una cosa? Basta conoscere i fatti del Parlamento, i fatti della storia. Però siete sintetici, sennò qui si vanno il quarto d'ora. Se mi fa parlare, io prego. Ho presentato una proposta sulla recidiva. La riforma della prescrizione è stata inserita con un emendamento nella mia legge e io per protesta rispetto a questo imbroglio ho ritirato la firma alla legge, e perciò si chiama ex Cirielli. Ma dico una cosa, per quale motivo in tutti questi anni la sinistra che critica la parte della Cirielli che non ho fatto io sulla prescrizione non l'hanno ancora cambiata e invece hanno cambiato la parte che ho fatto io che puniva in maniera più severa e decidivi e per esempio prevede che i permessi premio, cosiddetti permessi premio, possono essere dati con maggiore difficoltà ai recidivi e plurirecidivi. Quindi la parte secondo me buona, quella che ho fatto io, che inasprisce il sistema per i recidivi e per i plurirecidivi, l'hanno già cambiata. Tutta la parte della prescrizione non la cambiano e la tirano fuori. Ma perché non la cambiano adesso? Io la voto a favore. Ecco, benissimo. Cirielli, chiediamo brevemente a Gozzi se la vuole cambiare, ma proprio sintetico, Gozzi, perché ci dobbiamo lasciare. Io sono d'accordissimo a cambiare alcuni aspetti, ma sono d'accordissimo innanzitutto ad andare avanti sull'immediato che è la revisione della riforma cautelare, la revisione della custodia cautelare. Poi credo che la lunghezza dei processi, vi dico solo questo in maniera breve, poi ci salutiamo. Sa quanto costa la lunghezza dei processi all'Italia? 500 milioni di euro. No, per i processi troppo lunghi, oltre a negare la giustizia alle vittime di questi processi, dobbiamo pagare 500 milioni di euro. Questo è il prezzo che paga. Allora, mi sembra che ci sia tutta una serie di motivi per riformare la giustizia, rivedere il sistema carcerario, fare un nuovo piano carceri, fare la riforma della custodia cautelare. All'interno di questo, visto che c'è un'urgenza, il tempo poco e che occorre decongestionare carceri e processi, credo che all'interno di questo un provvedimento mirato per i reati minori, meno gravi, di indulto sia utile. L'importante è essere all'interno di una riforma molto più ampia. Chiaro, e con dei reati veramente da ladri di polli. E adesso quindi parliamo con l'avvocato Mario Iavicoli, che ringrazio con tutto il da fare che avrà oggi di essere qui. Buonasera. Iavicoli. Buonasera. E ricordo brevemente a chi non conoscesse la storia, brevemente la storia giudiziaria di Bartolomeo Gagliano, che appunto era fuggito in permesso premio e poi è stato arrestato oggi al confine con la Francia. Nell'81 inizia la sua storia giudiziaria con l'omicidio della sua amante, una prostituta che minacciava di rivelare la relazione che lui ha alla fidanzata dell'uomo. Condannato all'ospedale psichiatrico, evade una prima volta, viene catturato, nuovamente ricoverato. Fugge nel 1989, in quell'occasione commette altri due omicidi e poi ferisce una prostituta con un colpo di pistola al volto, nuova cattura, nuova evasione, nuovo ferimento di una fidanzata, sempre con uno sparo alla bocca, ricoverato nuovamente tra il 90 e poi il 94, evade altre tre volte, nel 2002 è considerato guarito, in seguito viene arrestato più volte per delitti minori. E oggi che è stato arrestato, che cosa le ha detto un uomo così, avvocato Iavicoli? Ma guarda, io non gli ho parlato dopo l'arresto, ho parlato prima. Ieri lei ha lanciato l'appello anche qui da Radio 24, da Effetto Notte, no? Sì, ma lui ha ascoltato l'appello, ha sentito l'appello e mi ha ascolta Radio 24, quantomeno, Gagliano. Sì, si vede che... mi ha chiamato che erano le 12.30, le 12.40, grosso modo intorno a quell'ora lì, tra le 12.30 e le 12.50, perché voleva costituirsi. Infatti avevamo concordato che sarei andato da lui in territorio nazionale, quindi non si parlava di Francia ma si parlava di territorio nazionale, e stanotte sarebbe costituito i carabinieri. Poi è intervenuta la gendarmeria francese ed è stata arrestata in Francia, in territorio francese. Quindi con lei non ho capito, non ha avuto modo poi dopo di dopo parlare? L'arresto non l'ho più sentito. Dopo l'arresto non l'ho più sentito. Ha detto che è dispiaciuto di aver tradito, sì, chi aveva avuto... sostanzialmente è dispiaciuto, nel senso che mi ha spiegato in 30 secondi, grosso modo, che era stato un colpo di testa, che era dispiaciuto di aver tradito sostanzialmente la fiducia sia del direttore del carcere, sia dello stesso magistrato di sorveglianza, gli avevano concesso questi permessi, nel senso, non era il primo questo permesso, era il terzo o il quarto che aveva, i primi erano andati bene, era rientrato tranquillamente senza nessun problema. Qua c'è stato qualcosa che però appunto poi ti spiegherà, qualcosa che a un certo punto o è caduto in depressione, o è successo qualcosa che poi l'ha portato sostanzialmente a non presentarsi. Però non è un fatto proprio così congiunturale, avvocato Iavicoli, se varie volte le leggevo, no, evaso, ha ucciso persone, sì. Quindi non è che abbia avuto ogni volta un momento di depressione, no, immagino. No, per carità, non intendevo dire questo, nel senso che quello che è successo prima e quello che probabilmente è successo adesso è legato sostanzialmente, probabilmente, a una condizione psichica non tranquilla, ecco, sicuramente c'è una componente psichica, da una parte non sarebbe rimasto per tanto tempo in ospedale psichiatrico, ecco, se fosse. Lei, avvocato Iavicoli, si rende conto di avere un lavoro, un impegno pesantissimo, molto difficile? Sì, per carità, certo. Su cosa si baserà la sua difesa? Così, se volesse anticipare. Adesso si tratta di capire, sostanzialmente, che non ho ancora capito bene, perché poi le voci non sono quelle ufficiali. Non so se è stato arrestato per un mandato di arresto europeo, e allora c'è un passaggio che deve fare davanti all'autorità giudiziaria francese, che è legato sostanzialmente alla consegna all'Italia. Se così fosse, ritengo che lui dia l'immediato consenso a che venga poi portato in Italia. E qui in Italia poi dovrà rispondere dei reati che gli contesterà l'autorità giudiziaria italiana, ecco, dall'erosione a quello che è successo dopo. Bene, avvocato. Se invece non è un mandato di arresto europeo, è chiaro che lì c'è un problema legato alla Francia, perché se la Francia, come normalmente fa, intende procedere per la detenzione dell'arma, e allora il suo arrivo in Italia verrebbe sostanzialmente ritardato al giudizio francese. Nel senso che la Francia lo giudicherà per reato di detenzione d'arma, e poi solo all'esito del giudizio lo consegnerà all'Italia. Avvocato Iavicoli, io la ringrazio, le auguro buone feste e soprattutto buon lavoro. Sì. Grazie avvocato. Buonasera. Grazie. Buonasera. E adesso capiamo anche che tempo farà nei prossimi giorni, visto che è importante, qualcuno partirà per le feste, qualcuno no. Colonnello Mario Giuliacci. Ciao Roberta, un buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Adesso questo appuntamento finale, almeno prima delle feste, colonnello Giuliacci, è molto impegnativo perché devi dare un quadro abbastanza prospettico, diciamo di lungo raggio, a chi ascolta per capire come organizzarsi, chi parte, chi non parte, chi anche chi resta a casa. Poi, insomma, che festività avremo da un punto di vista meteorologico? Diciamo potremmo riassumere tanto un Natale, feste natalizie bagnate, ma in compenso non farà freddo. Allora partiamo, andiamo con ordine. La perturbazione che oggi ha raggiunto, che da ieri insiste su gran parte del nord Italia, lascerà l'Italia domani, quindi da domani inizia un miglioramento, anche se insisteranno molte nuvole sul nord Italia, un miglioramento che durerà fino a lunedì 23, quindi avremo 3 giorni di bel tempo e di temperatura. Garantito, garantito, va bene. Garantito, a parte le soddisfatti o rimborsati, a parte le nuvole. Il 24, la vigilia di Natale, proprio appunto giusto, al momento giusto, arriva una nuova perturbazione che interesserà dapprima le regioni di nord-ovest nella giornata del 24, con nevicate fino a bassa quota sulle Alpi centro-occidentali. Quindi un Natale tradizionale per quanto riguarda il nord-ovest. Sì, direi di sì, anzi ci saranno nevicate nella notte di Natale, però limitatamente alle regioni alpine, forse anche nel Cuneese, nel Basso Piemonte. Comunque questa nuova perturbazione il 25 porterà piogge, il Natale, il giorno di Natale porterà piogge su tutto il nord Italia, le regioni tireniche, piogge che saranno forti sulle regioni di nord-ovest, ma avremo nevicate superabbondanti sulle regioni alpine, soprattutto su quelle centro-occidentali, quindi tutto sommato no, una notizia anche positiva, cioè queste nevicate che potranno far contenti gli operatori turistici. Ecco, soprattutto loro e chi va sulla neve. Ma invece a sud, neve. Centro-sud, colonnello, invece nel giorno di Natale? No, centro-sud, medio Adriatico e il sud invece prosegue il tempo bello, per di più, ripeto, le temperature resteranno miti fino alla fine dell'anno, tanto per non dovermi ripetere. Questa, e questo è già un dato positivo, quindi. Ecco, questa perturbazione che arriva alla vigilia di Natale purtroppo insisterà sull'Italia, questa volta non solo sul nord e regione tireniche come avviene per la giornata di Natale, invece il 26, giorno di Santo Stefano, piogge su tutta l'Italia, piogge che saranno forti sul Friuli e ancora nevicate su tutto l'arco alpino. Però c'è qualcuno che lo fa apposta, c'è qualcuno che lo fa apposta, nel fine settimana piove, nelle festività piove, com'è possibile, colonnello Giuliacci? Sì, cioè poi dopo il 20 ancora piogge al centro-sud e migliora al nord e poi dal 28 fino alla fine dell'anno dovremmo avere bel tempo. Allora, riassumendo, questo periodo piovoso tra il 24 e il 27, temperature miti, non farà freddo, nevicata abbondante sull'arco alpino, però è chiaro ci sono queste giornate piovose, soprattutto vigilia, Natale e Santo Stefano. Però bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, insomma, a parte le piogge non farà freddo, come dicevo, quindi il bicchiere mezzo pieno, e le nevicate sull'arco alpino ancora il bicchiere mezzo pieno. Bene, con questi bicchieri mezzi pieni e mezzo vuoti sento la sigla, quindi ci dobbiamo lasciare assolutamente. Grazie colonnello Giuliacci, buone feste a te e poi tra pochissimo ci sentiamo con le ascoltatrici e ascoltatori.